la voce libera, vibra la voce, Radio Onda Rossa. That was a good solution, hanging with the risen girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Sente? Non si sente. Beh, ricominciamo. Prova. Si sente? Sì. Ora si sente, scusate. Allora, ricominciamo. Occupare casa è un atto politico, occupare uno spazio è un atto politico. La creazione e l'agibilità di spazi politici è respiro e aria per il movimento femminista. La loro difesa è un momento importante di consapevolezza e di crescita del femminismo tutto e spazza via le teorie inconsistenti e false della convivenza civile e della legalità. Due principi che, peraltro, vengono sempre indirizzati alle oppresse e alle emarginate per far loro accettare condizioni di vita improponibili e ruoli, mentre chi li propaganda mercanteggia con le istituzioni promozione sociale personale e del gruppo di appartenenza. Occupare case, spazi abitativi, sociali è un diritto e chi, a vario titolo, lo nega, indipendentemente dal ruolo che assolve e dal distinguo che fa, accetta e non trova vergognoso che ci siano persone che non hanno un tetto sotto cui vivere, o che debbano pagare affitti improponibili, o che debbano regalare la loro vita per far fronte ai più elementari bisogni. E le occupazioni separate di donne, femministe e lesbiche rivendicano spazi di autonomia, di tutela e di sogno, a cui non vogliamo e non possiamo rinunciare, e valgono più di mille parole. Sostenerle o meno è una cartina di tornasole che chiarisce da che parte stiamo. Il femminismo oggi è anche rompere la legalità in cui ci vogliono imbrigliare. Where'd you put the keys, girl? Yes, forever. want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. E allora ciao a tutte di nuovo. Abbiamo avuto un inizio un po' titubante perché non avevamo acceso i microfoni, quindi abbiamo rimediato. E, questa trasmissione la vogliamo incentrare su un incontro nazionale separato, separatista, che abbiamo fatto proprio come coordinamento sabato questo passato, sabato 14. E questo incontro lo stavamo preparando da diverso tempo. E si intitola I ruoli, le donne, la lotta armata, questioni di genere nella sinistra di classe. L'abbiamo fatto con tante compagne di fuori Roma e di Roma che hanno scelto di venire a discutere con noi questo tema. Però diciamo che la scelta di questo tema non è stata non è nata da un interesse occasionale, ma è il frutto di una serie di passaggi che noi abbiamo attraversato in almeno 2 anni di diciamo analisi politica sui ruoli sessuati e sulla loro funzionalità in questo sistema sociale. Siamo partite dalla nostra esperienza personale, dalla nostra esperienza politica, dall'analisi della struttura sociale, dalla consapevolezza che in pratica l'oppressione di genere e di classe sono inscindibili. Diciamo che ci sono stati 2 passaggi fondamentali, a parte l'inizio, la stesura dell'opuscolo contro la violenza maschile sulle donne, però ci sono stati 2 passaggi fondamentali rispetto all'analisi dei ruoli. Uno è stato quello del 14 febbraio, il famoso San Valentino, in cui abbiamo indagato il paradigma dell'amore romantico, cioè questa costruzione secondo cui la donna o comunque i sessi, quello che viene individuato e connotato in questa società come sesso maschile e femminile, non sono autonomi, bensì parliamo della donna, la nostra parte non è finita se non ha la sua metà, non è compiuta se non si riconosce in nell'amore eterosessuale di coppia, in questa costruzione che è alla base della costruzione della famiglia, poi in effetti, e comunque proprio della incapacità di costruire individualmente la propria personalità. Oltretutto è anche un grande appoggio alla violenza sulle donne, perché le donne tendono a non sentirsi compiute, a non sentirsi finite se non hanno trovato quella famosa metà della mela, no? Che si propaga. E l'altra è l'incontro che abbiamo fatto l'anno scorso sulla storia, sulla memoria femminista, e quindi sulla necessità di sottrarre la memoria alla falsificazione, alla versione falsificata, addomesticata, masticata, rigettata in forma di ricordo innocuo che si fa della memoria dei movimenti trasgressivi in generale, della memoria femminista. E infatti l'altro passaggio ancora che ci ha portate a questo incontro è stato il 25 aprile, il momento del 25 aprile, perché quando c'è stato il 25 aprile i discorsi che abbiamo sentito sono stati questi. Ah, perché le donne una volta finita, cioè che nella resistenza hanno avuto dei ruoli di comando, che hanno avuto dei compiti importanti, che hanno preso le armi, non sono riuscite a farsi valere una volta finita la resistenza? Perché le donne hanno dimenticato quello che avevano ottenuto? Allora, noi abbiamo cominciato a riflettere. E non ci siamo fatti irretire in una retorica colpevolizzante, perché noi sappiamo che la struttura sociale e la cultura sono il risultato del modello socio-economico, non viceversa, quindi non basta un atto di buona volontà e tantomeno personale a cambiare lo stato delle cose, no? Però ci siamo chieste come, dato che nelle situazioni emergenziali, è successo nella prima guerra mondiale, quando le donne sono state mandate in fabbrica perché i maschi erano al fronte, no? È successo appunto durante la resistenza che le donne hanno assunto ruoli di comando, ruoli importanti eccetera, e poi quando è finita la situazione emergenziale sono state ricacciate nei ruoli. Tant'è vero che tra di noi ci siamo chieste, pensa tu quanto devono aver sofferto le donne che hanno vissuto quella stagione che, in cui avevano assaporato una dimensione diversa, a essere ricacciate nei ruoli e nella normalità, no? Quindi ci siamo chieste come cambiano i ruoli sessuati nelle situazioni emergenziali. Cambiano o non cambiano? Cos'è che li fa cambiare? Cos'è che li destruttura? E avremmo potuto fare questa indagine in un ambito storicizzato, no? Come quello della resistenza. E invece abbiamo scelto di farlo con protagoniste che ci sono state vicine, con donne che hanno attraversato la nostra stessa storia, e quindi tirar fuori una discussione di questo tipo da una dimensione storica impersonale, ma discuterne proprio insieme alle compagne che hanno fatto la lotta armata. E infatti l'incontro con alcune compagne è avvenuto, collettivi femministi, compagne, singole eccetera, con compagne che hanno fatto la lotta armata e che hanno accettato di discutere con noi di tutta una serie di cose. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution, sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation. Ciao a tutte e a tutti. E proprio il 14 dicembre quindi abbiamo voluto indagare in un'ottica femminista il tema della modificazione e o del superamento e o riproposizione dei ruoli sessuati all'interno di un ambito come quello della lotta armata, che costituisce un momento di rottura rispetto a situazioni cosiddette di normalità in cui i ruoli sessuati si esprimono. Nelle situazioni di eccezionalità le donne assumono ruoli e responsabilità a tutto campo. Volevamo affrontare il tema di come questi ruoli si scompongono e si ricompongono, e in particolare quelli sessuati, in una situazione che ha visto le donne protagoniste in una maniera forte, importante e determinante, e di come queste modificazioni sono state lette dalla società e percepite dalle protagoniste stesse anche in relazione alle modificazioni e rotture con l'esistente portate avanti in quegli stessi anni dal movimento femminista. Quindi abbiamo steso in una serie di punti, diciamo, di domande da porre a queste compagne, e queste domande erano: in un contesto come quello della lotta armata e della clandestinità, i ruoli sessuati si modificano e come? Quali sono i meccanismi che in queste situazioni possono permettere alle donne di svincolarsi dalle determinazioni di genere? Che cosa succede nei rapporti politici e militanti e in quelli interpersonali, dato il loro labilissimo confine in clandestinità? La militanza ha permesso alle donne una presa di coscienza di genere? Questo ha permesso loro di rapportarsi in maniera diversa rispetto agli stereotipi sessisti una volta ripiombate nella cosiddetta normalità? Nelle situazioni detentive, lo Stato, nelle sue articolazioni coercitive, ha tentato di riproporre i ruoli sessuati? In che modo i media hanno letto i ruoli delle donne nella lotta armata? Le donne che hanno attraversato queste esperienze, che prospettiva altra possono darci sullo scardinamento dei ruoli sessuati? L'esperienza delle donne in armi ha inciso nell'immaginario femminile e femminista durante e dopo gli anni della lotta armata? Come? E poi, prima di cominciare con la discussione insieme alle compagne, che è stata lunga, interessante e appassionante, siamo volute partire anche da delle definizioni. Una, la definizione di ruolo, ne abbiamo presa una semplice da un dizionario della lingua italiana, che dice che è la funzione di qualcuno in un determinato ambito. È un comportamento che una persona assume all'interno di un gruppo o di un sistema sociale. E la definizione di ruolo sessuato, che abbiamo preso dal libro di Daniela Pellegrini, che si chiama Una donna di troppo, che ci spiega: il bambino e la bambina interiorizzano fin dalla nascita il ruolo che gli viene assegnato dal sociale e identificano se stessi con il ruolo sessuato, che viene loro iscritto in base al sesso biologico. Si determina così il ruolo sessuato prima ancora della consapevolezza e della conoscenza del sesso biologico. Partecipato con noi a questo incontro tantissimi gruppi femministi di fuori Roma e di varie città, come il REF, Relazioni Femministe Milano, Torino, Genova, Scateniamo Tempeste di Rho, le compagne delle 25-11 di Milano e della consultoria, e compagne di Roma, insomma tanti gruppi e tante compagne singole. Ma volevamo ringraziare in maniera particolare le compagne della lotta armata, che hanno deciso di confrontarci e di parlare con noi, e sono state Barbara Balzerani, Silvia Baraldini e Rosella Simone. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas, llorona, que la Virgen Abbiamo diviso la giornata in due parti. La mattina abbiamo indagato soprattutto appunto lo scardinamento, la decostruzione, la ricostruzione, o se dei ruoli sessuati, se questi si sono scomposti, se questi si sono ricomposti nelle situazioni di emergenzialità o meno. Quindi è stato indagato proprio il rapporto delle donne con il ruolo che hanno nella normalità e il ruolo che si modifica invece nelle situazioni di emergenzialità. Diciamo che questo campo di indagine ci ha portato non solo tantissime sorprese, ma un grandissimo arricchimento, perché le compagne si sono veramente raccontate, e hanno raccontato degli episodi della loro vita, della loro militanza, che di fatto hanno costruito non solo indagini, o comunque hanno costituito diciamo analisi che per noi era molto importante, ma hanno anche ricostruito storia e memoria. E diciamo che ricostruire questo colloquio, ricostruire questo confronto sarà molto difficile e ci porterà ad un lavoro molto faticoso di ricostruzione. Abbiamo fatto le registrazioni, per cui man mano ricostruiremo il dibattito e ricostruiremo le testimonianze, però non sarà facile ricostruire lo spirito dell'incontro. Intanto è vero che ognuna di noi poi ha riportato impressioni sue su ambiti specifici, impressioni particolari che adesso magari vi raccontiamo. Borrando están los besos que yo te di, corazoncito tirano. Ciao, siamo in collegamento con Noemi e ci farebbe piacere che lei, come altri di noi faranno dopo, ci raccontasse le sue impressioni, perché sono soltanto così possiamo cercare di ricostruire quello che è stato lo spirito di un incontro che è stato veramente gratificante. Ciao. Allora, sì, è stato un bellissimo incontro, anche nella sua costruzione, quando poi abbiamo deciso di buttarci, insomma, a questa in questa, diciamo, questo dibattito, no? Un po' diverso dal solito, insomma, che affrontasse appunto i ruoli nell'emergenzialità, nella clandestinità, nella lotta armata, ed è stato un bel confronto, perché comunque le compagne che sono venute a raccontarci le loro esperienze sono stati capaci intanto comunque di dare un'impressione umana anche di quello che hanno vissuto, e però senza scendere comunque sull'intimismo, e dando una lettura politica a quello che è stata la loro vita in carcere, a quello che è stato, insomma, il contesto storico in cui hanno vissuto. Cioè, tutte e tre erano storie completamente differenti per il loro vissuto, per l'epoca, per il decennio in cui l'hanno vissuto, anche a differenza di paesi. Ed è stato bello potersi confrontare appunto con compagne che, tranne Silvia Baraldini, che in realtà aveva già avuto percorsi di lotta femminista, con le altre che invece erano sempre state abbastanza distanti dal movimento femminista, almeno della loro epoca. E quindi, insomma, potersi confrontare come compagne sul lavoro politico fatto, su un lavoro politico che appunto non parte da una coscienza femminista, ma parte appunto da una scelta di lotta, in questo caso, insomma, abbastanza importante, insomma, che determina poi tutto quello che verrà, e nelle loro vite, insomma, ha avuto un'importanza molto determinante, insomma, dal carcere alla perdita comunque di persone che hanno scelto lo stesso percorso politico. E insomma, a livello personale sono rimasta molto colpita proprio da come loro hanno affrontato, cioè, nel senso, mi immaginavo una cosa magari un po' più impostata, magari più buttata su appunto i percorsi politici. Invece sono riuscite, nonostante magari neanche loro forse se lo aspettavano più di tanto, a mettere in campo quello che poi, almeno come coordinamento, tentiamo sempre di portare in quello che facciamo, no? Il fatto che appunto il femminismo, almeno il femminismo che vogliamo attraversare noi, che vogliamo portare avanti noi, è quello che deve vivere delle lotte sociali e delle lotte politiche che portiamo avanti. Non si tratta esclusivamente di una lotta separata, perché anche quello però in realtà attraversa comunque dei percorsi politici che ci danno forza, come la battaglia No Tab, la lotta per la casa, le lotte territoriali, le lotte contro le nocività, e quindi, insomma, capire che, insomma, c'è la possibilità comunque di confrontarsi su questi argomenti senza ovviamente per forza rimanere schiacciate poi su un punto di vista esclusivamente femminista, ma legato a un femminismo magari che ci sta un po' più stretto. Almeno a me personalmente mi ha dato energia, carica, insomma, voglia anche di progettare, insomma, di mettermi in gioco il più possibile. Grazie tantissime, volevamo averti qui, ma oggi è una giornata infernale, siamo tutte arrivate in ritardo. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Sì, io mi riallaccio un po' alle impressioni di Noemi, nel senso che anch'io ho provato questa sensazione che comunque queste donne hanno dato sicuramente una lettura politica di fatti che comunque sono stati per loro sicuramente drammatici sotto tanti punti di vista, pensando comunque al lungo periodo in carcere, eccetera. E quindi, ecco, quello che mi ha colpito è proprio la forza di queste donne e la generosità che hanno messo nel tramandarci il loro vissuto, la loro esperienza, e soprattutto, ecco, mi ha colpito la loro lucidità e consapevolezza nel riguardare indietro. E soprattutto, ecco, perché in questi casi è facile cadere in un processo, diciamo, di autovittimizzazione o autocolpevolizzazione, mentre loro appunto sono state molto lucide, ecco. Snow can wait, I forgot my mittens. Wipe my nose, get my new boots on. I get a little warm in my heart when I think of... la seconda parte della giornata, cioè il pomeriggio, l'abbiamo incentrato invece sui rapporti, cioè sempre sui ruoli, sui ruoli sessuati, ma soprattutto a come si sono espressi in carcere, come le istituzioni hanno cercato di riportare nei ruoli sessuati le compagne, come queste compagne si sono rapportate con quelle che erano le detenute comuni, come si sono rapportati i familiari con le compagne che erano in carcere, o comunque con le compagne e compagni che erano in carcere. E questa, per esempio, è stata una testimonianza molto bella che ci ha data Rosella Simone, perché lei era nella duplice veste di familiare di un detenuto e di moglie di un detenuto, e poi detenuta, che è stata anche per un periodo detenuta lei stessa, e ci ha lasciato un documento scritto che ha letto direttamente, che è stata una testimonianza fortissima di come le donne si pongono in queste situazioni, di quello che soffrono, di quanto sono forti e di quanto ruolo chiede a loro. Quindi è una testimonianza a tutto campo che noi a proposito di tutto questo che noi stiamo dicendo e di come è andato il convegno, noi chiaramente faremo gli atti, e in questi atti metteremo anche le parti scritte, che in effetti in un'ora di trasmissione non si riesce assolutamente a dare giustizia a questo. Anche altre compagne ci hanno dato dei contributi scritti, per esempio le Dumbless di Udine ci hanno mandato, per questa seconda parte dell'incontro, questa sul carcere, un contributo molto bello che riporta anche degli stralci di documenti, e metteremo anche questo negli atti. E soprattutto, appunto, in questa seconda parte sono state indagate queste altre, però in generale l'incontro è stato talmente ricco che, appunto, è molto difficile renderlo in un'ora di trasmissione. Una delle cose che a me personalmente ha colpito di più è che durante l'incontro, nelle discussioni, è emerso come i ruoli in cui la società ci vuole costruire sono veramente tanti, sono un'infinità, e cambiano a seconda del contesto che in quel momento la donna sta vivendo. Il ruolo quindi è emerso che non è uno solo, ma si interseca anche in un singolo contesto con altri a seconda delle varie situazioni. Per essere più chiara, ad esempio abbiamo parlato delle situazioni detentive del carcere, in cui le donne si trovano addosso diversi ruoli, in questo caso ad esempio quella di detenuta politica, di donna. Ma restano anche i ruoli che erano all'esterno e che influenzano molto la vita all'interno delle carceri, come quelli di madre, di sorella, di figlia. Allo stesso tempo però c'è stata anche una riflessione delle compagne che invece ci hanno raccontato che quando le donne all'interno del carcere riescono a sospendere per un periodo i ruoli che avevano all'esterno, cominciano a intraprendere dei percorsi di liberazione, e quindi all'interno del carcere cominciano a svolgere attività sociali, culturali, lavorative, spesso e volentieri intraprendono anche relazioni affettive con altre donne, che sono però purtroppo tutti percorsi che nella maggior parte dei casi una volta uscite dal carcere queste donne riassumono i ruoli che avevano all'esterno e li interrompono. Mm-hmm. hacia la eternidad, los lazos para conmover a la humanidad. Como una dragona escupo el fuego para que te quemes con mi aliento. Vengo pasando porque te traigo este ritmo criminal. La lírica que te aplico también es fundamental. Hipnotizado, excitado por este sonido que te entra por todos lados. Avanzando rápidamente, superando obstáculos. Aunque me abrace el enemigo usando sus tentáculos. No soy pistolera, tampoco asesina. Menos. Pero vengo bien armada con mi ejército de rima. La tarima en cada esquina o donde sea. Expresando, voy representando mi odisea. Menea, que te menea, la marea me marea. Y no importa si soy la reina del tren fantasma fea. Mírenme, muévanse, tóquense bien rápido. Porque con mi lengua bofeteo como un látigo. Esta realidad te pone a prueba, el que no prueba. Sin lugar a dudas, siempre va a quedar afuera. Planeta, lo que necesitas, amor. Soy la dragona que te quemo con mi calor. Para que tú veas, soy el antídoto contra el dolor. Pregúntale al doctor, ¿qué? ¿Qué? Lanzo mis versos hacia la eternidad. Más profunda sobre la realidad antes que el barco se nos hunda. Haciendo resistencia, Malena me secunda, compañera de rima, la tarima desembucha. Si muchos lo esperaban, rima les traigo mucha. Si no estás preparado, pues prepárate y escucha. ¿Qué dicen los medios de comunicación? El mundo atraviesa una terrible situación. El hambre y la miseria se instaló en la población. Señores, y esta es mi reflexión. Digo que todo lo que pasa a mí solo me sirve para seguir parada firme y no rendirme. Soy parte de la gente que no cede ni desiste, que con dolor y sacrificio se para y resiste. Así, de esta manera, con lírica potente, porque así lo decidí. Y no me paran, y no voy a parar. Lo que quiero es llegar y una meta cruzar. Ya es el tiempo de que te dejes hipnotizar. Mi melodía te va a liberar y con mi música va. Però l'incontro non è stato soltanto racconto, memoria, sì, insomma, raccontare se stesse, raccontare la storia, un intrecciarsi delle testimonianze di queste compagne e anche delle nostre, perché in effetti ci siamo raccontate anche noi, no? È stato uno scambio reciproco, ma non è stato solo questo. È venuta fuori proprio una consapevolezza operativa. Che vuol dire questo? Noi siamo partite dalla constatazione che nei momenti emergenziali, li avevamo chiamati così, e infatti avevamo fatto riferimento appunto per esempio alla resistenza, come anche alla situazione della clandestinità e della lotta armata, nei momenti emergenziali, quelli in cui veniva rotto il rapporto con la cosiddetta normalità, i ruoli sessuati si modificavano e davano modo alle, o comunque le donne assumevano ruoli di comando e assumevano posizioni diverse da quelle che normalmente la società dà loro. Però dal racconto, e appunto avevamo chiamato queste situazioni emergenziali. Dal racconto invece, dal racconto, dal confronto, dalla storia, è venuta fuori un'altra cosa, perché che si è costruita man mano attraverso le testimonianze. Vi faccio un esempio. Barbara, per esempio, ci ha raccontato che durante la militanza, all'inizio della sua militanza, lei ha fatto lavoro politico con le donne, comunque con i baraccati, quelli che vivevano nelle case di lamiera con la col pavimento in terra battuta, che molto spesso si costruivano queste case negli archi degli acquedotti come riparo, eccetera, no? E che con questi e che all'interno, quando loro andavano a parlare con a fare lavoro politico, chiamiamolo così tra virgolette, tra queste persone c'erano le donne la cui fatica era giorno per giorno riuscire a dare una parvenza di casa e di normalità a quelle che erano delle baracche, cioè il fatto di trattarle come se fossero case, la cucina, la roba a stendere, il rapporto con i bambini, no? Proprio costruirsi questa illusione di casa e di normalità. Dopodiché, che cosa è successo? Che insieme a queste persone, sono stati occupati degli spazi, cioè è stata fatta la scelta di occupare non soltanto case, ma anche spazi di rapporto sociale, no? E che all'interno di queste occupazioni, cioè nel momento in cui ci sono state queste occupazioni, le donne, perché qui parliamo sempre di noi, hanno rotto con la normalità, cioè rotto con il concetto di normalità, con quella normalità che loro cercavano di tenere su con le pinzette nelle loro case di lamiera. E rompere con questa normalità e quindi incontrarsi in questi luoghi occupati, discutere, fare le assemblee, dimenticarsi e comunque non volere più, cioè non dovere, non volere più tenere su per forza questa casa, avere gli stessi ritmi di prima, dover fare le stesse cose, ma anzi cassarle per le discussioni, per rapporti nuovi, per fare lavoro politico e tenere su con le unghie e con i denti queste occupazioni. Che cosa faceva? Faceva fare un salto di consapevolezza pauroso, consapevolezza intesa come consapevolezza di genere. Allora, che cosa è venuto fuori appunto da varie di queste riflessioni e testimonianze? Che non era tanto parlare di situazione emergenziale quanto di sospensione della normalità, perché situazione emergenziale gli dà già un connotato che è molto più particolare, no? È molto più raro da trovare, mentre la sospensione della normalità è quella che può accadere in momenti anche come questi delle occupazioni, in momenti politici di altro tipo. Quindi c'è una differenza nelle lotte politiche tra quelle che sono le rivendicazioni che si possono fare anche economiche, che hanno una loro dignità anche rispetto ai cosiddetti diritti, no? Che hanno una loro dignità, che però non rompono con gli schemi in cui questa società ci infila. Cercano miglioramenti, cercano anche miglioramenti economici, che non è che questi sono da buttare via, però camminano sempre con le gambe dei canoni in cui non soltanto noi come donne e con i nostri ruoli siamo infilati, ma è un discorso che si può generalizzare anche al resto degli oppressi, no? Quindi è la rottura, non è la sospensione dei momenti della normalità che questa società richiede, che apre scenari, chiamiamoli così, di consapevolezza rivoluzionaria, che sono come delle crepe che vanno a rompere quella che è la quotidianità, ma non intesa come lavoro di tutti i giorni o come vita di tutti i giorni, come regolarità e normalizzazione in cui ci vogliono infilare. E quindi possibilità di un mondo, di un altro mondo, la possibilità di un mondo diverso passa attraverso queste crepe che si costituiscono nell'esistente. Crazy calls me. and I'll go through fire. As he wants it, so it will be. Crazy calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, you see. Like the wind that shakes the bough, he moves me with a smile. The difficult I'm due right now. The impossible will take a little while. I say I'll care forever, and I mean forever, if I have to hold up the sky. Crazy he calls me. Sure I'm crazy, crazy in love, am I. Like the wind that shakes the bough. Quindi ribadiamo ancora quanto la discussione sia stata davvero interessante e complessa, e nella giornata che abbiamo passato insieme non siamo neanche riuscite poi a dare risposta a tutte le domande che avevamo posto alle compagne e che vi abbiamo letto in apertura. E quindi ovviamente è venuto spontaneo pensare che ci rivedremo e faremo un altro incontro per continuare questo del 14 indicativamente a febbraio. E comunque in attesa della pubblicazione degli atti, che ci sarà appena riusciremo a scriverli e pubblicarli, noi metteremo mano a mano tutti i materiali scritti sul nostro blog, che è coordinamenta@noblogs.org. Ovviamente il nostro blog non è @noblogs.org, ma è coordinamenta.noblogs.org. Don't you fly away. No one should try and stop her. Persuade her with their power. She says that her mind is made. In chiusura di questa parte sull'incontro volevamo parlarvi anche di una piccola raccolta di documenti sul rapporto tra femminismo e lotta armata, che è un libretto in Italia negli anni 70, che è un libretto che ci ha portato una compagna di Milano che è venuta appunto all'incontro e che con altre compagne sempre di Milano sta curando e traducendo e facendo, insomma, una pubblicazione sulle Rote Zora, che è un gruppo femminista che ha fatto delle azioni armate, un gruppo femminista tedesco che ha fatto delle azioni armate negli anni 70, dagli anni 70 in poi, e che praticamente ha prodotto diversi documenti. E comunque in ogni caso questo libretto di questa compagna ha i documenti anche e soprattutto del rapporto tra femminismo e lotta armata in Italia negli anni 70. È un libretto molto interessante, che è una premessa, diciamo, alla pubblicazione che faranno. Dopodiché, per chiudere questa parte sull'incontro, volevamo leggervi due righe che ci ha scritto proprio per l'incontro Elena di Scateniamo Tempeste di Rho. Ho pensato a domande sul passato, a quelle sul presente, a quelle personali, a quelle politiche o di analisi politica. Nessuna domanda mi sembrava possa chiudere in sé una vita, un'esperienza, e che quindi la mia richiesta sarebbe stata parziale o inutile. Mi venivano in mente domande per cui non bastava una vita per rispondere, o questioni così limitate da divenire noiose. Porre domande mi fa anche sentire piccola e mediocre di fronte grandi esperienze, ed è la sensazione che prevale in questo momento in cui scrivo, o forse è il sentimento che emerge da sempre quando mi trovo di fronte a chi ha fatto delle scelte di vita radicali, sapendo che forse quello che avrebbe perso sarebbe stato di più di quello che avrebbe guadagnato. Ancora oggi, alla luce dei fatti recenti, mi sembra che chi lotta, chi si schiera, chi si fa partigiana ha ben poco da vincere e tutto da perdere, se non l'integrità, e non è poco, e il far rete con le altre, ed è già tanto. Non credo che le esperienze umane si possano paragonare, e chi ha scontato anni di carcere lo sa sulla sua pelle. Come oggi sappiamo che si paga in modo assurdo anche attaccare un volantino fuori posto, varcare la zona rossa, difendere la propria identità e dignità. Allora la domanda è: quale valore hanno il nostro vissuto e le nostre azioni, la nostra storia anche in un mondo che non ci riconosce e che non accettiamo? Come fare ad essere quel qualcosa che illumina la notte con delle fiammelle così deboli? Io la risposta non ce l'ho. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds whisper. Poor people gonna rise up, get their share. People gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those observers, armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds. Talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. E ogni ultimo mercoledì del mese abbiamo il contributo di Dennis, la rubrica Quelli che non hanno il genere ma hanno la classe, e che però c'è oggi dato che è l'ultima trasmissione dell'anno. Il contributo di oggi si chiama Diversity Management, una critica anarcofemminista e trans. Nell'ambiente queer radicale si problematizza il diversity management in quanto strumentalizzazione neoliberista che opera l'assimilazione frocia nel capitalismo, simulando quindi una liberazione che di liberante ha ben poco. Tuttavia, vengono individuati alcuni lati positivi, rappresentati principalmente dall'inclusione di marginalità varie, in particolare le persone trans, nel mondo del lavoro salariato. Evviva! Intendo mettere in dubbio l'efficacia di questa presunta inclusione. Mi risulta che progetti di diversity management abbiano risultati tangibili rispetto ad un numero ridotto di persone trans. Individuo i motivi di questa inefficacia principalmente nell'estrazione di classe e nell'esperienza relativa alla propria identità di genere, le quali tuttavia si influenzano, almeno in parte vicendevolmente. e nell'intersezione di esperienze ulteriori di cui parlerò più tardi. Questi progetti includono sì transessuali e transgender, ma soffrono di una miopia assassina. Spesso le posizioni disponibili richiedono determinati titoli di studio di un livello indubbiamente superiore rispetto al semplice diploma di terza media, che è in qualche maniera ancora accessibile più o meno a chiunque. Non è possibile ignorare la difficoltà per una persona trans di accedere a tali titoli. Le scuole, che oggi come oggi non sono nient'altro che diplomifici, anche se dal mio punto di vista, cioè di qualcuno che sostiene l'idea e la pratica di pedagogia libertaria, lo sono sempre state, e non sarebbe neanche l'ultima critica che si potrebbe porre loro, ma non è il punto su cui mi concentro oggi. E rappresentano il ponte, neanche troppo ben fatto, nell'abisso senza fondo del mondo del lavoro. E allora verrebbe da dire. L'omotransfobia nelle scuole, fomentata e o attuata tramite bullismi, innocenti battutine, ragazzate che casualmente finiscono in qualche suicidio, e poi si sa che la colpa non è mai di nessuno, è che uno si suicida per i suoi problemi, mai per quelli che causano gli altri, è una nebbia che si taglia col coltello. Questo ha sulla giovane trans un effetto negativo di proporzioni maggiori all'effetto subito dalla giovane omosessuale. Non parlo di bisessuali, perché anche loro subiscono un'ostracizzazione ulteriore, sia da parte degli omosessuali sia da parte degli eterosessuali, anche se è la palissiano che non necessariamente hanno a che fare con questioni riguardanti il proprio genere. Se l'omosessuale si trova ingabbiato dalla costruzione di dover nascondere la propria vita affettiva e sessuale, la persona trans si ritrova ingabbiata in quella di non poter esprimere neanche se stessa. Non è possibile vivere e viversi serenamente dovendo occultare parti importanti della propria identità, e la mancata possibilità di poterla esprimere acuisce la sofferenza della disforia di genere, in quanto tale, ma non solo. Condizioni sociali di questo tipo fanno sì che all'esperienza della disforia finiscano per sommarsi altre esperienze, quali depressioni, traumi di vario tipo, ansia e quant'altro, che inficiano in maniera notevole non solo il rendimento scolastico, ma la volontà e la fattibilità di proseguire il proprio percorso di studi. Possibilità ad ogni modo in partenza limitata, se non addirittura negata, dalla classe sociale della propria famiglia, nel caso in età giovanile di un contesto scolastico meno ostile alla diversità, e in età adulta dalle condizioni economiche peggiori inevitabilmente derivanti dalla discriminazione transfobica in contesti lavorativi che non necessitano di particolari qualifiche. Condizioni che non permettono di proseguire gli studi, acquisire qualifiche ulteriori ed ampliare quindi le possibilità di assunzione. Il tutto in quello che dimostra de facto di essere un loop infinito di oppressione classista e transfobica. Esistono anche problematicità ulteriori. Una donna trans è più svantaggiata rispetto alla controparte a causa della logica sessista e transmisogina, per la quale una donna che diventa uomo aumenta il proprio prestigio sociale, mentre un uomo che diventa donna squalifica se stesso. E se entra in gioco la variabile razza? Nell'attività di genderizzazione della razza operata dalla società, un uomo straniero agli occhi dei media italiani, bianchi occidentali, è sinonimo di ladro, stupratore e più genericamente criminale e violento, mentre una donna straniera è una figura debole e delicata ed è sinonimo di badante, prostituta, che nella variante dell'attivismo abolizionista diventa magicamente vittima di tratta sempre e comunque, come se non fosse mai esistita nella storia dell'umanità tutta un'emigrazione dedita alla ricerca di lavoro, sia esso sessuale o non. In tutto ciò una donna trans straniera racchiude in sé ogni fonte di discriminazione possibile. La parola trans in molte persone evoca immaginari relativi alla prostituzione, ma il connubio trans straniera ne evoca in chiunque, tanto che si potrebbe dire che la donna trans straniera sia in qualche maniera il motivo dell'appioppamento dell'etichetta prostituta alla comunità MTF nel suo complesso e la diffusione di un certo sentimento razzista e antiprostituzione fra molte trans bianche sembrerebbe confermare. Dove cercare l'origine di questo ruolo? In molte cose, direi, ma soprattutto nella morbosità che vede nel corpo trans razzializzato una molteplicità di stranezze che ne potenziano la carica erotica. Mi riferisco soprattutto alla sessualità erotica, esotica ed animalesca, che viene attribuita alle straniere in generale, che viene analogamente attribuita alla figura della donna trans non operata, bianca e non. E nella mancanza totale di opportunità diverse dalla strada per il risultato dell'interazione delle di razza, genere e classe, il cui funzionamento è stato già almeno parzialmente descritto. Alla luce di quanto detto, perché non immaginare un antilavorismo trans? È assurdo.